di quando voglio la mattina, non sono più come prima. E mandare a quel paese tutto il mondo per salvarmi prima di finire in fondo, non è poi tutto tondo. Quanti dubbi e incertezze, ora mi sento alle strette, ma tutto un tratto, tutto un tratto, ma tutto un tratto. Ora ci sei tu, ad aggiustarmi il cuore, ora ci sei tu. Tra le dita.